maledizione. Maledizione. Facciamo lo sbaglio, bisogno, oh mamma, l'illusione, la condizione. Facciamo lo sbaglio, dettata dal bisogno. Passo la porta ma freddo verso il portone, mentre m'allontano sento che grida dal balcone. Grido scusa mamma ma non serve un cazzo, guadagno cash ma lo pago con il suo disprezzo. Sono il risultato infetto di un'emorragia, ma quello che mi dicono mi suona in testa come una bugia. Il mondo è tuo, prendilo col dito, ma che mi prendo se come un condom usato fa schifo. Usta giostra, paghi l'entrata, paghi l'uscita, paghi tutta la partita, in fissa per la movida. Mi droga nel cervello, il circo è tutto ricco, ma mi tengo lontano fuori dall'orificio. Il mio business è Pekin c'ha fede. Lavori 24 su 24 ogni giorno del mese. Caccio da studio a calci fuori dall'Eden. Anche un angelo si sporge quando tocca il marciapiede. Questo morale è solo un'illusione. Su una bilancia messa la mia condizione. Negli occhi di mamma gocce di verità. Tracciando lo sbaglio, un'azione che è pesata dal bisogno. Questa morale è solo un'illusione. Sulla bilancia pesa la mia condizione. Negli occhi di mamma gocce di verità. Tracciando lo sbaglio, un'azione che è pesata dal bisogno. Scrivo di lei, da lei ottengo disprezzo. Sono schiavo della vita e di sto mondo imperfetto. Sputo il mio veleno, su sta base la infetto. Non esiste causa che non abbia un effetto. Smarisco la via, il mio pensiero va a mamma. Sbagliato che sia, qua il dovere mi chiama. Io non canto la trama, zero rapine con l'ama. Io c'ho rime kamikaze scritte come c'è con penna. Si rifiuta gli smazzi, c'è chi in cerca di scazzi. C'è chi invece qua in silenzio si conquista i suoi spazi. Ho la pappa pronta, te la studi alla prassi. C'è chi gira con la metro, c'è chi gira col taxi. Chi scarta tanti pezzi, mo le dita si consumano. Chi se ne tira tanti, noi è salsa come bufalo. Chi non sa che fare, danza le mani al cielo. Io mi muovo invece sui dettami del mio pensiero. Questa morale è solo un'illusione. Su una bilancia pesa la mia condizione. Negli occhi di mamma gocce di verità. Tracciando lo sbaglio, un'azione che è pesata dal bisogno. Questa morale è solo un'illusione. Sulla bilancia pesa la mia condizione. Negli occhi di mamma gocce di verità. Tracciando lo sbaglio, un'azione che è pesata dal bisogno. Il cielo sopra tuone, piove grandine. Lontano è il ricordo di quel bimbo fragile. E le sue paure nella notte così grandi che non si addormentava mai senza le tue storie. Mentre scrivo versi intensi in queste pagine, tengo impressa nella mente la sua immagine. La delusione nello sguardo che fissava me. Mamma tratteneva a stento le sue lacrime. Non pensare mai che non mi hai dato il giusto amore. Sul piatto ciò che pesa è questa condizione. Se ho fatto certi sbagli è perché ambivo una migliore. Ora ho perso la tua stima ed è il mio più grande errore. Oh mamma, je n'ai pas, je n'ai pas rien. Una cassette, la chaîne de ce lien, de ce lien. Oh mamma, je n'ai pas rien. Comme Lucifer, je dois le paradis, mais dans la rue c'est l'enfer. Questa morale è solo un'illusione. Su una bilancia pesa la mia condizione. Negli occhi di mamma gocce di verità. Tracciando lo sbaglio, un'azione che è pesata dal bisogno. Questa morale è solo un'illusione. Sulla bilancia pesa la mia condizione. Negli occhi di mamma gocce di verità. Tracciando lo sbaglio, un'azione che è pesata dal bisogno. Questa morale è solo un'illusione. Sulla bilancia pesa la mia condizione. Negli occhi di mamma gocce di verità. Tracciando lo sbaglio, un'azione che è pesata dal bisogno. Questa morale è solo un'illusione. Sulla bilancia pesa la mia condizione. Negli occhi di mamma gocce di verità. Tracciando lo sbaglio, un'azione che è pesata dal bisogno.